teso il cor sarai per me il solo amor. No, non ti scorderò, vivrò per te. Tante cose, se il vento lieve t'accarezza, un profumare di gioia.